Non sapremo mai naturalmente, perché il governo italiano ha cambiato idea in corso d'opera e rimangiandosi la promessa di accogliere i 13 militanti palestinesi della Basilica della Natività. Sappiamo soltanto che un qualche impegno informale in tal senso doveva esserci per forza, visto che gli americani, che è vero che sono un po' prepotenti, ma di solito non danno nulla per scontato e con i governi NATO hanno delle eccellenti linee di comunicazione, hanno agito per oltre una settimana nel presupposto che ci fosse. E poi in Italia lo avevano confermato in pubbliche dichiarazioni sia il senatore Andreotti, sottraendosi per un momento al fascino del Gorgonzola, sia un sottosegretario in carica. Poi, da un momento all'altro, con una dichiarazione di Fini, a cui gli altri leader delle strutture diplomatiche competenti hanno fatto una certa fatica ad allinearsi, si è deciso di tirarsi indietro. Lo stesso Berlusconi, a giudicare dalla faccia, non è sembrato particolarmente felice di dover respingere le pressioni di Washington e del Vaticano, e la sua trovata finale, quella di rifugiarsi dietro un'invocata posizione comune di quell'Unione Europea che in passato aveva avuto tante occasioni di prendere a pesci in faccia in nome del rapporto speciale con gli Stati Uniti, per non dire dei suoi personali interessi, quanto a questa trovata finale dimostra soltanto che all'impudenza dell'individuo non c'è proprio limite. Chissà cos'è successo. Probabilmente qualcuno tra i feudatari del Polo ha ritenuto più opportuno correlarsi direttamente con Sharon, che gli americani poi lo coprono sempre, e se questo significava mandare a monte un accordo, se non altro perché era il primo, avrebbe avuto un certo valore simbolico, tanto peggio. La politica del tanto peggio e tanto meglio in fondo è quella dell'attuale governo di Gerusalemme, e facendo la propria si possono conquistare in quella sede benemerenze cospicue. Il Fini in effetti è già stato premiato con la dichiarazione di Perez, che lo definisce, credo per la prima volta, persona gradita in Israele, che per uno con la sua storia non è cosa da poco, e qualcun altro forse sarà premiato o punito, anche se a noi non lo verranno a dire di certo. In ogni caso, la situazione nella soluzione berlusconiana è stata definita ragionevole da Fassino, il che significa che quando si tratta di fare una brutta figura, in Italia governo e opposizione sono capaci di marciare perfettamente all'unisono. Già, perché adesso che l'Unione Europea è doverosamente intervenuta e che la questione dei 13 palestinesi sembra destinata a una soluzione magari un po' più pasticciata ma sostanzialmente non diversa da quella escogitata una settimana fa, quello che resta da gestire all'Italia è soltanto una figuraccia diplomatica senza precedenti. E forse solo una figuraccia, che è un genere a cui la nostra diplomazia in un certo senso è abituata. Il fatto è che dopo una fiumana di chiacchiere sul nostro ruolo, sulla politica mediterranea dell'Italia, sulla volontà di pace del governo, sul nuovo piano Marshall e via andare, il governo e opposizione si sono clamorosamente lasciati sfuggire senza nemmeno spiegarci perché è l'unica, probabilmente l'ultima occasione che ci fosse mai stata presentata per contribuire con un gesto concreto, se non alla pace almeno alle trattative. Anzi, non l'hanno considerata nemmeno un'occasione, un'opportunità da cogliere al volo per quanti problemi potesse comportare. L'hanno vista come un fastidio da condividere e suddividere, se proprio non lo si poteva evitare, da suddividere con qualcun altro, da rifilare a qualcun altro. È un atteggiamento che può essere benissimo considerato, come scrivevano ieri quasi tutti sui giornali, una mossa di fine politica, ma dal punto di vista morale, lo ammetterete anche voi, e rivela una bassezza assolutamente degna del paese di Ponzio Pilato. Yeah, you know, we was talking earlier and I was telling you, it's all my life. I feel like life is really just